Dialogo sedicesimo. Raccontò Abu Huraira. Disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria: un viandante assetato giunse ad un pozzo e vi si dissetò. Mentre stava allontanandosi dal pozzo, vide un cane che, torturato dalla sete, leccava della sabbia bagnata. Pensò quel viandante: quel cane è torturato dalla sete come lo ero io prima di giungere al pozzo. Tornato al pozzo, attinse con uno dei suoi zoccoli un po' d'acqua e diede da bere al cane. Allah, in riconoscimento di questo atto di misericordia, gli perdonò i suoi peccati. Chiesero allora i presenti: o apostolo di Allah, c'è forse una ricompensa per noi anche quando rendiamo un servizio alle bestie? Rispose l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la abbia in gloria: c'è una ricompensa per ogni servigio reso a qualsiasi creatura.